get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a voi e ben sintonizzate sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa. Quella che state per ascoltare, spero si senta il microfono, io in cuffia non ho il ritorno, comunque spero che stiate per ascoltare la nostra 233esima trasmissione e qui in studio a farvi compagnia saremo Caterina che vi sta parlando e con me c'è Rosina. Buonasera a tutte. Allora, questa sera la scaletta prevede una conversazione telefonica con una regista italiana che da molti anni crea e firma film interessanti e che realizza anche grazie ad un laboratorio che lei stessa ha fondato. Stiamo parlando di Milly Toia che ha consentito a rilasciarci un'intervista nella quale parleremo in modo particolare del suo ultimo lavoro che si intitola Le pietre e l'amore. Inoltre in questa trasmissione abbiamo deciso di utilizzare tutto lo spazio dedicato alla musica ascoltando i brani dell'artista che ha scritto ed interpretato la colonna sonora dell'intero film. Il suo nome è Paola Molgora, della quale Rosina ci darà qualche informazione più avanti, subito dopo appunto il primo brano che andiamo ad ascoltare subito e che si intitola Fate rifatte. La stessa autrice specifica che si sottintende rifatte d'amore e vuole essere un inno ad una nuova antica forma di femminismo basata sulla solidarietà, dove ci si auspica al ritrovo della propria coda da lupe. Quindi andiamo appunto ad ascoltare Fate rifatte di Paola Molgora. Cerco un femminile Allora, eccoci qua, questa era la bella voce di Paola Molgora e vi diamo qualche notizia su Paola, che appunto è nata a Monza, però è vissuta in giro per il mondo, dice lei. Ha lavorato sulle navi da crociera durante il periodo dell'università, poi una volta laureata si è vissuto a Roma per 4 anni. Ha confessato a Caterina che tifa per la Roma, sì, chissà, forse il ritrovo, comuna il ritrovo della coda di lupa deve essere questo. Giallorossa. Allora, scrive musica e testi da quando aveva 15 anni, quindi non ha mai smesso, anche se il suo lavoro è tutt'altra cosa. Il suo stile è legato alle ballate rock americane, ma cura anche con grande attenzione i testi che scrive in italiano, perché appunto secondo lei la musica è emozione e significato. In ogni sua canzone, indipendentemente dal tema che viene trattato, alla base c'è un viaggio verso la terra dell'amore, il viaggio verso la terra dell'amore. Lei dice così: non mi chiedere cos'è o dov'è questa terra, quello che conta è appunto il viaggio, l'idea, il sogno che alimenta il percorso, sostenuto e condiviso da chi accompagna il tuo viaggio. Diciamo che non voglio trasmettere verità, ma solo passione per ogni cosa. A questo punto ci sarebbe dovuto stare uno stacchetto musicale, ma si è impallato il registratore. Certo, non ha importanza. Va bene, faccio io la latte. Il registratore si è emozionato nell'ascoltare Paola Molgora. Cioè, qualsiasi calzone al confronto non può essere. Va bene, io problema. Direi di presentare a questo punto, visto l'ostentazione di rifiuto. Avremo tempo per ascoltare nuovamente Paola. Vai. Quindi a questo punto introduciamo invece Milly Toia, che, come avete sentito da Caterina, sarà nostra ospite questa sera per un'intervista. Che dire di Milly Toia? Sicuramente è una personaggio poliedrica, piena di iniziative. Elencare tutte le cose che ha fatto non è possibile, perché sono veramente molte, per cui ci limiteremo a dare così un piccolo elenco, e poi magari durante la diretta telefonica lasceremo a Milly la possibilità di approfondire ulteriormente. Allora, Milly Toia ha realizzato diversi spettacoli comici. Vi diamo i titoli: La vera storia di Via col vento, La storia di Ruth e di Noemi, Edipo e la sua mamma, una tragedia greca, questo mi piace molto. È stata fondatrice nel 1987 dell'associazione Sofonisba Anguissola, insieme ad un gruppo di donne di Torino che è impegnate sul terreno della pratica politica femminile, e accomunate anche dalla passione per l'arte. Infatti il nome di questa associazione ricorda una pittrice cremonese del Cinquecento. Lo scopo di questa associazione è quello di indagare l'espressione artistica attraverso una riflessione sulla creatività femminile. Nel 1983, quindi facciamo un piccolo salto indietro, ha fondato con altri il Lacido, il laboratorio di cinema di donne, con il quale ha prodotto e girato molti film in Super 8, in 16 mm e ultimamente anche in digitale. Ricordiamo la storia di Esterina del 1997, che ha ricevuto il premio del pubblico e la menzione speciale della giuria al Festival di Cinema delle Donne di Torino. Dei delitti e dell'amore del 1998, che ha ricevuto appunto il premio del pubblico, ed era un lungometraggio. Nel 1999 La sindrome di Biancaneve, presentato al Torino Film Festival. Nel 2003 L'alito del drago. Nel 2005 Le pietre del sapere, che è il primo film di una serie quasi fantasy. Nel 2007 L'ordine delle stelle, che è appunto il secondo film della serie e che appunto segna il seguito delle pietre del sapere. Nel 2012 Le pietre degli inganni, che è il terzo film di questa saga. E nel 2014 Le pietre e l'amore, che è il film di cui parleremo più diffusamente stasera, e che non so se concluderà la saga, ma insomma è la quarta pietra della saga. A questo punto abbiamo presentato le nostre amiche e compagne. Io direi di continuare ad ascoltare qualcosa di Paola Molgora. Credo che Caterina abbia preparato il mantra del Pozzo del Rum. Sì. Secondo l'autrice, con questo testo, con questa musica ci si avvicina ad un sentire totale dell'intensità dell'esistenza. Il ritornello recita: la vita è solo un bicchiere di ghiaccio, o mi ammazzo o mi faccio. mentre va il brano contatteremo Milly e sì, quindi ascoltate Paola insieme sì, a noi. Io mi auguro semplicemente che il telefono della radio in questo momento non faccia le bizze come ha fatto il registratore, ma comunque incrociamo le dita e ascoltiamo Paola Molgora. Bene, la canzone sta finendo, io sì, voglio semplicemente sapere se ho fatto tutti i passaggi giusti e se Milly è con noi. Tutti i passaggi giusti. Ottimo, grande. Sentiamo la voce. Ok, allora. Io devo passare alla non posso sentire la radio, se no c'è un ritorno. Anzi, ti chiediamo di chiuderla, perché tanto poi avrai modo di riascoltarti, che metteremo la trasmissione per intero online. Quindi bene, perché c'è già qualcuno che non poteva stasera, che me l'ha chiesto. Poi ti manderò il link. Intanto, grazie, benvenuta, grazie. Buonasera, intanto vorrei scusarmi per avere sbagliato il nome di Paola, ma purtroppo gli accenti qui a Roma non sono il nostro forte. No, ma è così, ormai è così. Allora, quindi lo ripetiamo, Paola Molgora, giusto? Molgora. Paola, scusaci, perdonici, ci cospargiamo il capo di cenere. Non esageriamo, infatti conto è sempre romanista. Bello sentire la musica di Paola per radio. Meno male, siamo contenti. Bellissimo, okay. Bellissimo, sì. Veniamo a noi. Allora, sì. Nell'incipit della nostra trasmissione abbiamo cercato di elencare tutte le cose innumerevoli che hai fatto. Sì, una palla è lunghissima. Ma più che altro, e quindi la nostra ricostruzione è stata per forza di cose didascalica, certo. Alla luce di questo, giusto, però sì. Prima di iniziare a parlare del film, mi farebbe piacere indagare su quelle che sono le tue motivazioni, quindi ti faccio due domande, io te le faccio di seguito, poi sei libera, ne hai facoltà di unirle insieme, fare un'unica risposta, sì, o dividerla, sì, per, sì, due, sì. Quindi ti chiedo, cosa ti ha spronato ad agire per realizzare tutto questo, e quanto ha inciso il poter lavorare con altre donne? Beh, sono due domande che vanno insieme per me, almeno, e la risposta anche è una risposta unica. Ma guarda, mi ha spronato il desiderio di raccontare delle storie, mm-hmm, e di poterle raccontare attraverso le immagini. Io ho sempre fatto delle cose a livello artistico, quindi facevo delle installazioni, delle sculture, delle cose, e poi c'era anche quest'altra passione collaterale che era comunque il cinema, il raccontare, uh-huh, per immagini, uh-huh, e non avrei mai realizzato niente di tutto questo se non avessi avuto accanto a me un gruppo di donne che mi sosteneva, che mi dava l'autorizzazione a procedere, perché, uh-huh, questo qualcuno deve dartela, certo, e che condivideva con me anche questa passione, certo. Quindi non, certo, so se ti ho risposto, sì, però sì. Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì. E poi io volevo fare un altro punto di vista, che è il mio personalissimo, no? Perché, sì, io sono abituata a partire da me e dal mio essere lesbica, no? Certo, sì. Io mi rendo conto che ogni giorno che passa sono sempre più convinta che di desiderio, che è quello che ha mosso anche te per realizzare tutto quello che hai fatto, di desiderio appunto si parli veramente poco, e, sì, poi quando se ne parla sempre più spesso viene delineato esclusivamente attraverso raffigurazioni che a me, proprio perché sono lesbica, non mi corrispondono affatto. Nei tuoi film, invece, in generale, ho riscontrato un'attenzione particolare nella individuazione di un simbolico altro. Ti va di parlarcene? Su quello che io rappresento, certo, ti dici, certo. Ma guarda, io racconto la storia di donne che sono donne libere, mm-hmm, e che si muovono in un contesto dove sono a loro agio, e soprattutto in un contesto già dato che esiste, in un mondo che, cioè, io parto dall'idea che il mondo delle donne esiste, non è che dobbiamo continuamente ricrearlo. Chiederne conferma. Come? Cioè, chiederne conferma. Chiederne conferma, ecco, assolutamente quello. No, mm-hmm, quindi parla di racconto di, ci sono di racconti di amore, di amicizia, di soprattutto di relazioni tra donne, che è quello che mi interessa raccontare, certo, le relazioni che sono alla base della nostra vita e di quello che io voglio dire. E poi è chiaro che magari lo dico in un modo ironico, beffardo, mm-hmm, prendo un po' in giro, ci prendo in giro, ecco, anche quello di prendersi un po' in giro vuol dire che il nostro mondo è già abbastanza in piedi, se no non riusciremmo a farlo, certo. Non abbiamo bisogno di ribadire sempre le cose, e cerco anche di non definirmi, capisci, di non definire, io parlo dell'amore e parlo dell'amore, Certo. Parlo dell'amicizia, parlo dell'amicizia, perché il definirsi in relazione a qualcos'altro vuol dire comunque che quel qualcos'altro è la norma da cui ti scosti o ti accosti, e non è quello che io penso. Cioè, io penso che non debba esistere questo, okay. E che se esiste, pazienza, non esiste per me. Non esiste per te, mi sembra legittimo. Me ne fisco. Esatto, assolutamente sì. Cioè, io dico, se una è convinta di una cosa, va bene portare avanti quello in ogni cosa. Per cui crede, per cui figuriamoci, no? Cioè, io credo nella libertà, in un contesto di assolutamente libertà, sì. Ciascuno di noi può fare quello che vuole, appunto, assolutamente, quindi, sì, ma infatti io quando prima parlavo di desiderio era a questo che mi riferivo, no? Se il desiderio è desiderio, è desiderio puro, poi indipendentemente da chi lo vuole catalogare o vincolare ad, certo. Ad un nome, cioè se il desiderio, certo, è desiderio, certo. A prescindere, il desiderio è desiderio, esattamente. Giusto. L'amore è l'amore, esatto. Quindi non... esatto. Senti, adesso vogliamo cominciare un attimo ad avvicinarci a parlare del film, no? Sì, perché sì, sì. La serie fantasy della quale il film Le pietre e l'amore fa parte, sì. È stata identificata con la dicitura La saga delle pietre, quindi sì. A questo punto mi viene spontaneo domandarti perché le pietre, cioè quale simbologia attribuisci a questo elemento naturale? Sì, non sei l'unica persona che me lo chiede. Meno male. Allora, ci ho anche pensato. Allora, secondo me c'è un fatto concreto che è simbolico. Allora, il dato concreto è molto banale, è questo. Io una volta al mare, qualche anno fa, in un negozio, sai, dove vendono minerali e cose, sì. Del genere, belle, ho comperato due pietre che sembrano due uova, che sono quelle che compaiono nel film, tra l'altro. Ecco, questo l'uovo che mi rimanda a tutto un discorso di dell'importanza che questo ha, cioè l'uovo che contiene la vita, l'uovo che sembra, sì. Un utero, l'uovo che trasmette qualcos'altro, l'uovo che simbolicamente rappresenta quello che schiudendosi accade, dentro qualche cosa accade, qualche cosa nasce, quindi è una trasformazione. Certo. Questo mi è sempre piaciuto molto. Ricordo anche che c'è un quadro di Piero della Francesca che è molto bello, dove lui rappresenta la Madonna con il bimbo in braccio, e in un modo completamente assurdo, perché è sbagliato anche prospetticamente, da un uovo che le cade sulla testa. Non so se lo hai mai visto. No, in questo momento non ricordo il titolo. Andrò a vedermelo, mai colto in castagna. Mamma mia. Comunque è molto bello. Poi la simbologia dell'uovo non è solo mia, appunto, è sua e di tante altre persone, di tanti altri artisti anche. Comunque questo mi affascinava, mi ha affascinato perché erano comunque delle pietre, ma delle pietre trasformate in pietre a forma di uovo. E poi per la pietra in sé, perché non so se vogliamo dargli un significato che conoscono un po' tutti, che simbolicamente conoscono tutti, pensa alla pietra filosofale, ma quella degli alchimisti del Medioevo e del Rinascimento, quella che trasforma il metallo in oro. Certo. Quindi anche quella è una pietra di trasformazione. Certo. Ecco, mi... Quindi penso essere... che sia anche questo, guarda, penso che sia questo, perché sai che poi non è che quando tu crei qualche cosa hai le idee così chiare, guarda. No, me ne rendo conto. No, ma è vero, guarda, sempre non è che gli artisti poi fanno le cose malgrado loro, no. Però no. C'è comunque qualche cosa che ti sfugge, perlomeno c'è un significato apparente. Ma che guarda, ti è chiaro. Io penso che la bellezza dell'arte sta proprio qui, nel fatto che ognuna che guarda ha la possibilità di una interpretazione personale. Se fosse, esatto. Tutto scandito, sicuro, netto e rigido, non sarebbe così interessante, no? Quindi esatto. Dare la possibilità a chi osserva di interpretare mi sembra un'ottima cosa. Certo. Ok, adesso andrò a vedere quell'uovo in testa, perché ormai mi ha messo in curiosità. Sì, ma guarda, Madonna di Brera. Non è la Madonna del parto, perché quella è un'altra cosa. E non mi ricordo il titolo. Guarda, la Bella di Brera, perché i potenti comunque mezzi tecnologici. Piero della Francesca su questo. Piero della Francesca, va bene. Piero della Francesca, la Pala di Brera, i nostri potenti mezzi tecnologici ci hanno consentito di avvicinarci a questa opera, ecco, che c'era esatto, su Gino. Che tu pensavi di avere a che fare con delle persone ignoranti, per fortuna invece era proprio così. La Pala di Brera, ecco. La Pala di Brera. Perfetto, ecco, perfetto. Qua, e ci siamo. La Pala Montefeltro, se volete, ecco. Ecco, se proprio la vogliamo dire tutta, ottimo. Sì, senti, sì. Un'altra domanda, poi ascoltiamo un altro brano di Paola. Allora, i tuoi film sono tutti autoprodotti, quindi il budget è stato contenuto e proporzionato alla possibilità che voi che l'avete finanziato, no? Diciamo che rientra quindi nella categoria dei film poveri, ma sono poveri sicuramente soltanto se si pensa all'aspetto economico, non lo sono affatto se ci si sofferma sui contenuti. Però generalmente quando si legge un libro, si guarda un film, si vede un'opera d'arte, cioè c'è sempre un messaggio che sta dietro, no? Quindi se ti chiedessi di rendere leggibile in poche frasi la cosiddetta morale della favola, come la renderesti palese a chi ci sta ascoltando? Morale della favola su quello che racconto nel film, certo. o sui messaggi che vuoi mandare, i messaggi basici. Io voglio raccontare di una comunità di donne che necessariamente deve avere questa separazione dal mondo maschile, mm-hmm. dove il mondo maschile in qualche modo, se vuoi, cerca di impossessarsi di un qualche cosa che a loro appartiene, che può essere il che in questo caso è il potere delle pietre, ma che sembra che nasconde quello che è il potere della maternità, se vuoi, mm-hmm. o della capacità delle donne di relazionarsi tra loro in modo diverso di come gli uomini si relazionano. Direi anche questo io. Certo. E quindi questa comunità maschile è comunque minacciosa. E io credo in questo, io credo che gli uomini e le donne debbano vivere separati. Sono perfettamente d'accordo. con dei momenti di condivisione insieme, ma che comunque le donne hanno bisogno di dialogare, sì, con le altre donne proprio per pensare il mondo, e così come gli uomini. Quindi non, certo, adesso non mi pongo il problema di come loro pensano, ma comunque mi pongo il problema. Non è un nostro problema, mi pongo il problema di come. Io quello che voglio raccontare è questo: voglio raccontare la bellezza, se vuoi, anche di questa comunità, dello stare insieme, della solidarietà tra donne, dell'amore, dell'amicizia, soprattutto dell'amicizia. Infatti io nell'ultimo film batto molto su questa storia, sì, anche se poi il mio personaggio si lascia travolgere, però in realtà il discorso primo è quello sull'amicizia, certo, è quello sulla relazione tra donne come base, dove si può partire, fare, muoversi, come pensare. Come punto di partenza per fare come tutto punto il di resto. Partenza, e anche come punto di partenza per pensare il mondo, per poter cambiare il mondo. In fondo, sai, io arrivo da quello che era proprio il movimento delle donne, quindi il movimento delle donne più radicale, anche più separatista, quello che portava avanti appunto un discorso molto chiaro, e dove io mi ci sono trovata anche molto bene, e tutta la mia vita, certo, che è cambiata in maniera radicale, è stata così, è stato questo, è stata, certo, la possibilità di pensare al mondo con le altre, di ricreare il mondo e di ricreare la mia vita, se vuoi. Certo. Cioè, una delle cose creative più grosse anche che io ho fatto è stato quello di pensare alla mia vita creativamente e di impostarla totalmente, ecco. Certo, stai parlando con donne che hanno deciso di fare una trasmissione radiofonica proprio per questo. Per esattamente, ma infatti ti capisco e ti capiamo perfettamente. Senti, ma infatti direi, sono molto contenta di questa anche noi siamo molto contenti, ragazze, guardate. Siamo siamo veramente molto contente, però purtroppo mi corre l'obbligo dirti che noi abbiamo ancora 10 minuti soltanto, per cui direi di mandare un'altra canzone di Paola che si intitola Come la luna di Madrid, sì, e poi ti devo fare io una domanda proprio io a titolo personale, perché il tuo film mi ha suscitato delle cose, quindi te ne volevo parlare e volevo avere un confronto con te su va questo bene. Ok, quindi ascoltiamo Come la luna di Madrid di Paola Molgora. Questa domanda che devo assolutamente farti, non riesco a dormire la notte. No, sto scherzando, scherzo assolutamente, ci mancherebbe. Allora, prima tu hai fatto riferimento alle tue radici di vita politica, no? Quindi certo. Io ti volevo comunicare che anch'io appartengo ad una generazione che ha avuto modo di godersi le storie narrate nel libro La difesa di Scholl, Aurora, che è un magnifico esempio di fantascienza al femminile, scritto da Joanna Slovacevsky. Non lo conosco. Purtroppo è fuori produzione, è difficilissimo da trovare, forse su eBay si trova ancora qualche copia. Te ne faremo avere una copia, lo troveremo. Lo troveremo e te lo doneremo. Perché merita veramente, secondo me, ti può dare anche qualche spunto magnifico per andare a fare altri film. Allora, vedere Le pietre dell'amore ha richiamato alla memoria la civiltà millenaria di Shora. Shora era un pianeta degli oceani, assolutamente autosufficiente e costituito nella sua totalità da sole donne. Ad un certo punto su Shora incombe una terribile minaccia, minaccia proveniente da un altro mondo, un mondo maschile. Ecco, questo libro è stato un simbolo per molte donne lesbiche, ma anche per molte femministe, perché sembrava rendere concreta la possibilità di vivere in grosse comuni. Le pietre dell'amore me l'hanno fatto un po' rivivere. Certo. Quindi, come lesbica, sono sempre, poi, tra le altre cose, sempre più incline ad attribuire al mondo maschile una possibile minaccia. Quindi, questa chiaramente è una mia libera interpretazione. E non sono così sicura che tu avessi proprio questo in mente quando hai fatto le ambientazioni e hai scritto la storia, ma si sa che al di là delle intenzioni della regista, l'immaginario di chi guarda è libero di spaziare. Quindi non voglio assolutamente coinvolgerti in questa mia digressione, ma neanche suggerire ad altre le mie elucubrazioni, però mi sembrava carino dirti che in sostanza il tuo film mi ha suscitato molte emozioni e mi ha colpito molto, però queste emozioni sono assolutamente positive e mi sembrava carino dirtelo. Ma grazie, ti ringrazio. Ma figurati, ci mancherebbe, io ringrazio te. Però altre domande sul film te le voglio fare, e parto da un aspetto che mi ha colpito molto. Le personaggi che sono rappresentate nel film appartengono a più di una generazione, si trovano a convivere quindi e ad interagire donne di età diverse, ognuna delle quali con un proprio sapere. Per chi come me fa politica da tanti anni, viene spontaneo riscontrare in questo aspetto un'accezione senza dubbio molto positiva. Ognuna di noi fa riferimento a donne che ci hanno precedute, ed il continuo ricordarle rende tangibile il riconoscimento e il conseguente spostamento del piano rappresentativo. Allora ti chiedo, dove nascono le idee per le tue storie? Insomma, dove attingi per trovare contesti, situazioni e dinamiche da raffigurare? E poi, che significato ha per te la solidarietà fra donne? Beh, questo credo di aver già quello sì, io la domanda l'avevo già scritta e tu hai risposto prima, non potevo fare niente. Cancellato, facciamo un rewind. La seconda domanda non la facciamo, facciamo no, però per me la solidarietà tra le donne, se posso di nuovo sottolinearlo, è la base della mia creatività. Non esisterebbe se non ci fosse questa se non ci fosse appunto questa solidarietà tra le donne. Dalla comunità di donne che mi circonda, guarda, penso in un modo non crudele, ma metto in luce anche quelli che sono un po' le manie, le grandezze, le meschinità e tutto quanto di tutto quello che sia mie che delle altre. Se volevi sapere se attingo anche a situazioni del passato, ma guarda, forse in qualche modo, dato che io avevo anche fatto un film su di loro e sono molto importanti per me, che erano la Virginia Woolf e la Vita Sequel West, sul loro rapporto, sulle cose che si dicevano, su questa forma un po' beffarda, ironica che Virginia ha, soprattutto quando parlava della vita, ecco, forse questo modo un po' ironico di parlare dell'altra, anche se l'altra ti coinvolge molto, ma come in qualche modo con l'ironia riesci a tenere a freno tutto quello che è l'aspetto più emotivo che ti può travolgere, ecco, questo forse potrebbe essere quello che un po' mi ha dato degli spunti, ma per il resto no. cioè sono proprio delle, dall'osservazione delle cose attorno dalla a me, quotidianità della, delle persone, dalla quotidianità, okay. Sì, guarda, dalla quotidianità, okay. E anche dal, dalle situazioni paradossali, se vuoi, ad esempio dei delitti dell'amore, dove io penso che addirittura una donna ne abbia uccisa un'altra, non, e allora ci sono tutte le altre che alcune ci credono e altre no, però in fondo il pensare che qualcuno può averne ucciso un'altra, ecco, era un modo un po' ironico di prendere in giro, certo. Se vuoi, non lo so, un modello di sorellanza che poi finiva per non essere soltanto quello, che è pieno di sfaccettature invece, proprio, certo. Per questo molto più affascinante, ecco, non, certo. Comunque attorno a me, sì, anche non... la psicologa, le cose sono mie frequentazioni, sono mie cose. Va bene. Volevo anche dirti che questa, sì, saga fantasy, che nasce poi da un film preciso, nasce dall'Alito del Drago, che io avevo, che è il primo film che ho girato, dove parlo di una violenza su di una donna, di come questa riesce a liberarsene, e di donne che vivono insieme e che poi nascerà una bimba, che è in qualche modo questa cosa della comune, la mia storia proprio, quindi non... E allora da lì che c'è questo incontro con questo strano personaggio, eravamo a Terra di Lei, c'è questo strano personaggio che è come una dea, ecco, da lì poi sono partita per, mi sono lasciata andare a quello che è un mio, però è un mio amore da sempre, che è appunto questa saga che potrebbe essere fantasy, ma che esce fuori dal genere fantasy, perché non, certo, lo è veramente, certo. Perché poi le donne hanno i telefonini, arrivano con le macchine, quindi è un continuo slittamento tra un mondo fantastico, un mondo fantastico e un mondo reale, ecco, è come se fosse situata in mezzo questa cosa, capisci, in un mondo, e ormai è come se esistesse veramente, quindi io, oddio, penso a loro come delle, non come le attrici del mio film, ma come dei personaggi che veramente esistono, quindi sul mondo della follia, ovviamente, quindi ormai, vabbè. Va bene, noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Io ringrazio voi, ragazze, grazie perché mi avete dato una grande opportunità. Ma ci mancherebbe, il piacere è stato tutto nostro, purtroppo, come ti dicevo, il tempo tiranno. È tiranno, non facciamo in tempo ad ascoltare l'ultimo brano di Paola, lei, ecco, ci perdonerà, avremo volevo anche dirvi che lavorare con Paola è stato fondamentale anche per il film, perché lei mi ha accompagnato proprio passo a passo in tutto quello che erano le varie scene, ha composto le musiche apposta, è stata eccezionale, guarda, eccezionale. Noi continueremo magari ad utilizzare qualche volta le canzoni di Paola nelle nostre trasmissioni, perché mi sembrerebbe una bella cosa, guarda, perché Paola è un'artista bravissima che andrebbe valorizzata anche molto, ma molto di più, quindi non, io mi auguro che questo nel accada nel nostro piccolo, magari potremmo, esatto, anche fare, esatto, qualcosa, qualche, con lei, qualche canzone, tra l'altro, se ci sta ascoltando, ci ascolterà in differita, la salutiamo stesso, molto, la salutiamo molto, la ringraziamo per quello che ha prodotto, e noi siamo qui, insomma, se ci vuole mandare della musica noi siamo disposte a mandarla in onda, quindi Milly, purtroppo il tempo è finito, noi va ti bene, ringraziamo, ragazzi. E ci sentiamo presto, il CLR dà appuntamento a 15 giorni per una nuova trasmissione, buon proseguimento di ascolto sui liberi microfoni di Radio Onda Rossa e ciao. Ciao. Ciao, ciao, buonasera. Ciao, ciao. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.